falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi parliamo di calcio, in realtà parliamo di una grande impresa, riuscita per la prima volta una squadra che non aveva mai vinto uno scudetto. È una storia di campioni, uno di loro in particolare è un ragazzo biondo che ha dimostrato di essere un grande giocatore, al quale il calcio ha dovuto rinunciare per colpa di uno scherzo finito male. Oggi vi racconteremo la storia di Luciano Rececconi e della sua Lazio. Negli anni 50 l'Interland milanese è ben diversa da come la vediamo oggi. Non ci sono tutte le industrie, gli svincoli, le superstrade, ci sono tantissimi campi dalle parti di Nerviano tra Milano e Legnano. E ci sono contadini e operai, gente semplice e grandi lavoratori che non temono la fatica e crescono i loro figli con disciplina e rigore. I bambini crescono all'aria aperta, sempre pronti a giocare, a correre, magari dietro a un pallone. Inizia così la storia di Luciano Rececconi, che già nel cognome ha qualcosa di regale, perché quell'appellativo re pare sia stato dato alla sua famiglia direttamente da Vittorio Emanuele II, che di ritorno dalla battaglia di Magenta viene accolto dagli abitanti della frazione Sant'Ilario di Nerviano e per sdebitarsi stabilisce che tutti gli abitanti possano fregiarsi del prenome re. Così la famiglia Cecconi diventa Re Cecconi. Luciano ha 15 anni, lavora in una carrozzeria, ha fatto anche il calzolaio, il fruttivendolo, è figlio di operai, quindi appena si può bisogna mettersi a lavorare, però ha anche la passione del calcio e gioca bene perché a 19 anni è già nelle giovanili della Pro Patria, anzi a 19 anni esordisce in Serie C. Non passa certo inosservato in campo, anche perché ha una chioma bionda che lo fa sembrare un tedesco e poi è un giocatore potente, massiccio, si butta su tutti i palloni, non perde i contrasti, quasi subito viene messo a centrocampo. È uno che macina chilometri sul campo, è uno che non riesce a stare fermo in area e aspettare la palla. Lui è uno che la palla se la vuole andare a prendere e non la molla finché non vede il compagno giusto a cui passare. Fin dal primo momento l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e forse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare e il portiere lo fece passare. Quando uno gioca così non passa inosservato e difatti il Foggia, che gioca in Serie B, lo chiama, lo porta via da quel paesino del nord dove è cresciuto e dove non tornerà mai più. Alla guida del Foggia c'è una persona che prende Rececconi sotto la sua ala protettiva e lo fa diventare un campione, una persona di cui sentiremo parlare ancora, Tommaso Maestrelli. Maestrelli è come un padre per i suoi ragazzi, riesce a creare un gruppo che ottiene grandi risultati. La Serie B è un campionato molto difficile dove ci vuole molta continuità, alla fine il Foggia ce la fa, conquista la Serie A e l'esordio di Rececconi proprio in Serie A è del 4 ottobre del 1970. Il Foggia gioca contro il Milan, la squadra per cui lui tifava da bambino e quindi per lui è il classico raggiungimento di un sogno. What can I do? She still sang it through with how it was. What will I find? I still can't see why she says what she does. How can we hang on to a dream? Il il sogno della Serie A per il Foggia dura solo un campionato, però Receconi ha l'occasione di assaggiare i campi della serie maggiore per trovarsi davanti a quei grandi campioni che ha sempre sognato da bambino. È un giocatore che corre tantissimo, è sempre pronto a coprire in difesa, aiutando i compagni per poi ripartire e impostare l'attacco per le punte. È forte, si fa rispettare, non è un giocatore da falli cattivi, anzi è il primo a calmare le acque se qualche suo compagno si innervosisce. Insomma, ha la stoffa del campione, Maestrelli se ne accorge e lo coltiva, lo perfeziona, mettendo in evidenza le sue doti calcistiche. Il Foggia retrocede solo per differenza reti, Maestrelli passa al Lazio, anch'essa retrocessa in Serie B. Receconi continua a macinare chilometri in campo nella squadra pugliese che è stata affidata a Ettore Puricelli. In quella stagione Receconi migliora nel suo ruolo di regista, quello che deve guidare la squadra e smistare palloni. Insomma, diventa un allenatore in campo. Quando Maestrelli riconquista la Serie A con la Lazio, deve rinforzare la squadra. E allora, del gruppo di cui fanno già parte Wilson, Chinaglia, Frustalupi, Odi, il portiere Felice Pulici, c'è anche Receconi, che Maestrelli ha fortemente voluto. Non lo aveva dimenticato. Anzi, come ricorda Wilson, proprio nel campionato di Serie B appena concluso, il Foggia aveva rifilato alla Lazio 5 gol. Receconi credo sia stato uno dei primi acquisti voluti dal nostro allenatore, che peraltro già avevamo conosciuto in questa nefasta giornata di Serie B con 5 gol sul groppone, e credo che lui sia stato il primo tassello di quella squadra. Così Luciano torna a giocare in Serie A, questa volta ha intenzione di restarci a lungo. La Lazio è una squadra giovane, ma fa già paura a tutti. È una neopromossa, però non ha soggezione delle grandi squadre come l'Inter, il Milan e la Juventus. I ragazzi sono allenati da Maestrelli, che è un padre. Sono un gruppo pieno di entusiasmo, che gioca un calcio pieno di grinta, forza fisica, tecnica. Maestrelli sta creando un grande gruppo che ogni domenica diventa sempre più forte. Così arriviamo al campionato 72-73, che viene vinto dalla Juventus, che all'ultima giornata batte la Roma. La Lazio arriverà terza, secondo il Milan, che perderà nella Fatal Verona 5-3. La Lazio conquista la qualificazione in Coppa UEFA, perché in quegli anni in Coppa dei Campioni ci andava solo la prima arrivata. Falco e il Gabbiano. Stiamo parlando di una Lazio particolare, quella di Tommaso Maestrelli e soprattutto quella di Luciano Receconi, che è il protagonista della nostra puntata di oggi. Una Lazio che da neopromossa fa un grande campionato, rischia di vincere lo scudetto. Dopo un inizio altisonante tutti si aspettano un calo e invece la Lazio rimane avanti fino all'ultima giornata, perché in quel gruppo ci sono giocatori come Wilson, Oddi e Martini in difesa, come Chinaglia, Garlaschelli in attacco, e con un centrocampo che oltre a Nanni e Frustalupi annovera soprattutto lui, il biondo Luciano Receconi. Nel campionato successivo la Lazio non è più una sorpresa, le aspettative per la squadra di Tommaso Maestrelli sono tante. Nessuno pronuncia la parola scudetto, visto che la squadra solo 2 anni prima era in Serie B, però in molti lo sognano. Maestrelli ha la possibilità di rinforzare la squadra, ma non lo fa perché preferisce lavorare sul gruppo, magari spostando i giocatori dai loro ruoli e mischiando le carte. Ma io mi sono attenuto soprattutto che la società, il presidente, potesse riconfermare quelli che hanno giocato l'anno scorso. Abbiamo operato con un acquisto abbastanza solido, quale può essere il Servini, un giocatore, nonostante sia giovane, è un giocatore già di una certa esperienza, e poi abbiamo preso dei giovani che, affiancati a quelli della primavera, formano la rosa completa della squadra. Non c'è niente da fare, la bravura di un allenatore si vede in questo, soprattutto in anni in cui gli scudetti si vincevano schierando 14-15 giocatori. Valorizzare il gruppo, coltivare i giovani talenti. Le squadre di oggi spesso hanno decine di campioni, poi quando c'è da fare la partita che conta, quella da giocare con il cuore, magari questi campioni deludono. Ma quando invece c'è un allenatore che alle tue spalle ti tratta come un figlio e capisce quali siano i punti deboli del tuo carattere e quali sono i punti di forza, allora quel gruppo riesce a fare grandi cose. Alla domanda su quali sono le squadre favorite per la vittoria del campionato, Maestrelli, cauto e diplomatico, rispose così: ma senz'altro penso sempre il Milan e la Juventus, fra queste due squadre uscirà la squadra campione d'Italia. Mente, perché sa che la sua Lazio è molto forte, e infatti il campionato inizia bene per la sua squadra, che perde la sua prima partita contro il Milan solo all'undicesima giornata, collezionando 6 vittorie e 4 pareggi. La squadra è molto forte e si sta creando un gruppo compatto con i vari reparti in grado di dialogare tra loro. È un'armonia che porta risultati in campo, ma certo non corrisponde a quello che avviene negli spogliatoi, perché la stranezza di quella Lazio è proprio negli spogliatoi. Allora, intanto il leader, quello che ha il carattere più forte, è Chinaglia, che non fa nulla per nasconderlo. Però ci sono due gruppi distinti: da una parte giocatori del nord che tra loro parlano in dialetto apposta, Martini, Rececconi; dall'altro quello del resto dell'Italia, con Chinaglia e Wilson che sono i leader. Maestrelli lo sa, li lascia fare perché pensa che una sana rivalità non possa che far bene allo spirito agonistico con cui la squadra deve presentarsi in campo. Spogliatoio della Lazio del 73 è un posto molto particolare, da cui è meglio tenersi alla larga. Ci sono due gruppi che si sopportano a fatica, due clan: Giorgio Chinaglia da una parte, Luigi Martini dall'altra. È gente che arriva all'allenamento portandosi la pistola, che fa tiro al bersaglio. Entrambi i due clan si dichiarano, contro tutto quello che in quell'epoca poteva avvenire, si dichiarano fascisti. Tra l'altro, le partite di allenamento diventano una valvola di sfogo, vengono giocate con un agonismo superiore a quelle della domenica. Non solo, spesso quelle partite diventano un modo per regolare conti in sospeso. Maestrelli lo sa, fatica a tenere a bada i suoi ragazzi, lo sanno anche i tifosi che affollano le tribune sperando di vedere qualche scazzottata, però questa strana, discutibile terapia di gruppo sfocia poi nel giorno della partita, quella vera, quella della domenica. E allora lì il gruppo si ricompatta per portare a casa un risultato positivo. Martini è diventato molto amico di Rececconi, i due si frequentano anche fuori dal campo con le rispettive famiglie. Noi stavamo sempre insieme, dividevamo la stessa camera d'albergo, avevamo gli stessi hobby, fuori dal calcio passavamo quasi sempre tutto il tempo insieme. Questa amicizia diventa anche fattiva sul campo, perché Rececconi a volte abbandona la fascia centrale per andare a coprire sulla fascia sinistra Martini, che si sta spingendo in avanti. Quindi Martini e Rececconi diventano una coppia perfetta anche in campo, oltre che fuori. Addirittura Martini coinvolge Rececconi in un hobby che è un po' di fuori della norma, cioè il paracadutismo. I due nei giorni liberi si buttano dall'aereo, una cosa oggi impensabile se consideriamo gli interessi che gli sponsor hanno nelle varie competizioni. Quindi pensate oggi Balotelli e Cristiano Ronaldo che tranquillamente si buttano col paracadute. Grazie al gol messo a segno da Anastasi al decimo minuto del primo tempo. Attenzione, sì. Deve esserci un calcio di rigore. Scusa Ciotti se ti interrompo, c'è un calcio di rigore in favore della Lazio. C'è stata un'azione da parte della squadra laziale in attacco, abbiamo visto l'arbitro. Ecco che si muove in questo istante, entra in aria, colpisce la palla a rete! Sulla destra, l'urlo dell'Olimpico. E così la Lazio è a un passo dal vincere lo scudetto, il primo della sua storia. L'incredibile favola iniziata 2 anni prima in Serie B sta per avere un lieto fine. Il gruppo di 11 giocatori che sotto la guida di Maestrelli sono riusciti a stare davanti alla Juventus si prepara a diventare un gruppo eroico per tutti i loro tifosi. Se ne accorge anche Valcareggi, che comincia a convocare dei giocatori laziali, in particolare Wilson, Chinaglia e Rececconi. L'arbitro Panzino aveva dato l'impressione a tutti che la partita fosse conclusa, mentre invece la folla deve ancora stazionare ai margini del campo. È già successo in altre occasioni, nelle occasioni di partite che hanno deciso l'assegnazione dello scudetto, episodi di questo genere. Ora finalmente è via alla grande invasione ed ecco che i tifosi laziali stanno invadendo il campo di gioco mentre tutti i giocatori cercano di sottrarsi a questo abbraccio. Il gruppo creato da Maestrelli il 12 marzo 1974 conquista lo scudetto ed entra nella storia del calcio. Con la formazione tipo Pulici, Petrelli, Martini, Nanni, Oddi, Wilson, Garleschelli, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi, D'Amico. D'Amico ha solo 19 anni e viene considerato il piccolo della squadra, gioca sul lato sinistro, quindi anche lì Rececconi spesso si prende cura di quella fascia, ma soprattutto lo protegge quando qualche avversario allunga troppo il piede. Ma di questo e di altro parleremo tra poco. Falco e il Gabbiano. Oggi raccontiamo la storia di Luciano Rececconi, che indossa la maglia numero 8 in una Lazio che contro ogni pronostico vince uno scudetto. Luciano Rececconi, re del centrocampo, si prende cura di un giovanissimo D'Amico che ha solo 19 anni. Rececconi ne ha 24, ma a quell'età, insomma, 5 anni fanno la differenza. Ed è lo stesso D'Amico che ricorda quanto Rececconi lo proteggesse agli inizi della sua carriera. Eravamo a Genova, contro il Genova, io esordivo, era il primo anno, l'anno dello scudetto. E a Genova c'era un difensore che appena entrato in campo mi si avvicinò e mi minacciò dicendomi non ti muovere altrimenti ti spacco una gamba, e è intervenuto lui. Io sai, avevo 19 anni, ragazzino, ero un po' così intimorito, è arrivato lui e gli disse non fare il furbo con lui, prenditela con me se c'hai coraggio. Rececconi è soprannominato il saggio perché lui è uno che unisce lo spogliatoio, non lo divide, è calmo, pacato, riflette prima di agire e prima di reagire. Anzi, quando scoppia qualche rissa tra i due clan nei quali è spaccata la Lazio di Maestrelli, lui cerca subito di mettere pace, e questa sua saggezza la mette anche in campo, e spesso diventa uno di quei giocatori che nel momento più difficile sono in grado di prendersi sulle spalle tutta la squadra, risolvendo magari una situazione sfavorevole. Pochi gol ma buoni, quest'anno ne ho fatti 2, insomma ho battuto il record di anni precedenti, insomma, che era soltanto di un gol. Mi auguro che non sia solo e di continuare così, però secondo me non è importanza chi fa il gol, che l'abbia fatto io o che l'avesse fatto un altro, per me era la stessa cosa. L'importante era ottenere la vittoria e ci siamo riusciti. Pochi gol ma buoni, importanti, gol pesantissimi. Lui non è un goleador, è uno che fa segnare gli altri, ma i pochi gol che ha fatto i tifosi laziali se li ricordano ancora, perché per esempio ne fa uno al Milan all'ultimo minuto con un gol che permette alla Lazio di vincere la partita. Ma lui era milanista, fare un gol al Milan era, per lui era, diciamo che era milanista da ragazzo, poi chiaramente laziale, perché non si può non essere laziali dopo aver vissuto quella Lazio. Rececconi, il trascinatore che si carica la squadra sulle spalle, come quella volta contro il Como nel campionato 75-76. Perché sono passati solo 2 anni dallo scudetto, ma sembra un secolo. Allora, intanto Tommaso Maestrelli si è ammalato di tumore al fegato, sta vivendo gli ultimi mesi della sua vita e si dedica in modo altalenante alla Lazio e ormai sta abbandonando la carriera e purtroppo non solo quella. Giorgio Chinaglia a sorpresa ha lasciato la squadra, è andato a giocare in America nei Cosmos di Pelé, è una vera e propria fuga, è un po' i dollari americani, un po' si rende conto che in un paese dove la media dei giocatori è così scarsa lui potrebbe continuare una carriera senza doversi allenare troppo. Viene sostituito da un ancora acerbo Bruno Giordano. Quindi a soli 2 anni dalla vittoria dello scudetto la Lazio è a un passo dalla retrocessione, anzi una sconfitta con il Como la condannerebbe a tornare in Serie B e alla fine del primo tempo il Como sta vincendo 2-0. A Como è stato il condottiero, nel senso che veramente lì ha trascinato la squadra, lui lo era come caratteristiche sempre, ma in quel momento lì in cui eravamo in grandissima crisi perché stavamo retrocedendo, se non facciamo risultato a Como saremmo retrocessi, 2-0 per loro dopo poco, e lì veramente è uno di quei casi in cui si può dire che è stato il trascinatore, ci ha preso per mano, ci ha condotto al pareggio che valeva la salvezza. Arriva il tuo momento della verità ed il finale sarà quello che vorrai. Durante il viaggio tanta gente sparirà, ma torneranno quando vincerai. Gli anni 70 sono anni difficili per l'Italia. Le contestazioni giovanili hanno lasciato il posto alla lotta armata, gli atti criminali sono all'ordine del giorno, le prime pagine dei giornali sono piene di sparatorie, ferimenti, omicidi, rapine, c'è un clima veramente di paura, sono molti i negozianti che tengono una pistola nel cassetto e negli stessi ambienti giovanili la moda di comprare delle armi come avveniva negli spogliatoi della Lazio è diventata molto frequente. Anche Rececconi è consapevole di questo fenomeno. Da quando Chinaglia e gli altri portavano le pistole negli spogliatoi sono passati pochi anni, ma a lui le pistole non piacciono perché lui viene chiamato il saggio per la sua mentalità molto tranquilla. Eppure la carriera di Rececconi viene fermata proprio da uno sparo. Sarebbe continuata per molto tempo, sicuramente sarebbe stato un ottimo dirigente perché era innamorato del calcio e della sua maglia numero 8 biancoceleste. Bene, il destino in una fredda sera di quel gennaio del 77 gli gioca un brutto scherzo. In quella sera Rececconi assieme al suo compagno di squadra Ghedin sta accompagnando un amico in una gioielleria di proprietà di Bruno Tabocchini. Il gioielliere ha già subito diverse rapine e tiene anche lui una pistola in negozio. I tre entrano nella gioielleria con i baveri alzati per il freddo e le mani in tasca. E accade qualcosa che nessuno è mai riuscito a chiarire. Questa è la gioielleria dove Rececconi con un amico e con il giocatore Ghedin sono entrati. Qui Rececconi scherzando ha detto: questa è una rapina. Il gioielliere sembra che abbia tolto la pistola dal cassetto e abbia sparato un colpo. Un colpo solo che ha preso Rececconi, che prontamente è stato soccorso. I giornali parlano di uno scherzo finito male. E forse Rececconi ha pronunciato una frase fraintesa dal gioielliere, che era già impaurito da precedenti rapine. Forse è stata una disgrazia, forse era in atto uno scherzo, magari perché Rececconi confidava di avere un volto talmente famoso da rendere paradossale un tentativo di rapina. Fatto sta che parte quell'unico colpo che colpisce Rececconi alla spina dorsale, devia verso l'aorta recidendola. La morte sopraggiunge nell'ascensore dell'ospedale. Rececconi muore a soli 28 anni, lascia una moglie e 2 figli piccolissimi e una carriera che lo avrebbe reso ancora protagonista per molto tempo. Sono quasi 5.000 persone questa mattina all'Euro per salutare Rececconi. La messa è stata celebrata dal cappellano della Lazio che ha ricordato il giocatore con un lungo e commosso discorso, seguito attraverso gli altoparlanti da tutti quelli che non avevano trovato posto in chiesa. La morte di Rececconi sembra assurda per tutti, soprattutto per i suoi compagni di squadra. Anche perché se c'era qualcuno che in quel gruppo poteva fare una bravata del genere, poteva essere Chinaglia, poteva essere Martini, Petrelli, Wilson, tutti ragazzi con la propensione alla rissa facile e anche al grilletto facile. Come quella volta che Chinaglia attaccò Briga in un cinema con un tifoso giallorosso e senza pensarci due volte lo prese a pugni. Ma Rececconi no, lui non era il tipo da pistole, da botte, da vendette. È sempre stato quello che le risse cercava di calmarle sia in campo che fuori. Per cui sembra impossibile che sia stato così imprudente da fare uno scherzo a una persona che non conosceva neanche bene. On the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose. L'inchiesta che segue la morte di Rececconi non risolve i dubbi che sorgono sulla reale dinamica di quella sera. Ghedini, il compagno di squadra che era accanto a Rececconi, che si salva solo perché ha avuto la prontezza di riflessi di far vedere subito le mani togliendole dalle tasche, non ricorda cosa accadde esattamente quando i tre entrarono nella gioielleria. Forse la frase fermi tutti in realtà non fu mai detta, o forse fu detto qualcos'altro che venne frainteso dal gioielliere. Fatto sta che si dice che le ultime parole pronunciate da Rececconi furono: guarda che è uno scherzo. Dopo anni di silenzio, nel 2011 il figlio Stefano, che all'epoca della morte di Luciano Rececconi aveva solo 2 anni, partecipa a una trasmissione di Rai 1, presentata da Paola Perego, in cui interviene anche Carlo Nesti e per la prima volta espone il suo punto di vista sui fatti. Mi è stato spiegato che, insomma, poi negli anni questo gioielliere aveva una pistola, io non me ne intendo di armi, assolutamente, però è una pistola sensibilizzata. Queste pistole sensibilizzate, basta lo sfiorarsi del grilletto che il colpo parte. Io posso pensare che spostando la pistola verso mio padre sia partito accidentalmente un colpo che comunque ha ferito mortalmente mio padre. Quindi una disgrazia, però Stefano Rececconi ci tiene anche a precisare una cosa importante. Poi però bisogna sempre tornare indietro e guardare in che anni è successa. In quegli anni la criminalità organizzata si autofinanziava con le rapine, certo. Per cui l'opinione pubblica poi lui era già stato rapinato 2 volte, bravissimo, era molto sensibile a questo fatto. Beh, quella era l'Italia del terrorismo, era un'Italia che aveva veramente paura, erano all'ordine del giorno episodi di questo genere, accresciuti dal clima politico pesantissimo che si respirava. Era un'Italia in cui se sbagliavi a mettere un paio di scarpe a Milano rischiavi la vita. Un clima di paura, soprattutto in città come Milano e come Roma, che è il centro dell'attività politica italiana e che solo un anno dopo vedrà la strage di Via Fani e il rapimento e il successivo assassinio di Aldo Moro. La storia di Luciano Rececconi rimane per molti aspetti una storia senza risposte chiare, ma ci resta il ricordo di un grande campione, generoso, che ha contribuito alla vittoria storica di uno scudetto storico, di una squadra storica che ancora oggi molti ricordano. E noi vi chiediamo di segnalarci su quali storie volete si posi il nostro interesse e il nostro microfono a ilfalco@radio24.it. Un saluto a tutti, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.